E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, come vi hanno ampiamente annunciato i nostri GR, oggi si è tenuto il Consiglio dei Ministri tutto dedicato all'economia, quello che nelle parole dell'intervista della settimana scorsa del Presidente del Consiglio Berlusconi al TG1 avrebbe dovuto sancire, al di là dell'articolo 41 della Costituzione, la riforma dell'articolo 41 della Costituzione, i provvedimenti per passare dalla fase di contenimento della spesa, quindi di messa in sicurezza dei conti pubblici, che tutti da tempo riconosciamo come merito del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, alla fase, diciamo, del rilancio, di riuscire ad arrivare a una crescita superiore allo 0,8-0,9, che è quello che si profila per quest'anno. Ho usato il condizionale perché in realtà, come già si capiva da molti quotidiani oggi, va detto, a partire dal Sole 24 Ore, ma non solo, nel momento in cui viene bloccato il decreto sulla concorrenza e soprattutto il Ministro Tremonti dice fate le riforme, le iniziative che volete, ma a costo zero, diciamo, l'elefante ha partorito un topolino, per essere buoni, e lo diciamo con la massima oggettività possibile, nel senso che sono decreti anche interessanti, ma molti osservatori sono scettici, e quindi che questo, da qui possa arrivare un vero rilancio dell'economia. Di questo parleremo in apertura. Poi la borsa, come sempre, che oggi non fornisce grossi spunti quanto indici. Milano invariata, Parigi invariata, Francoforte un debole più 0,1% di rialzo e Londra meno 0,3%, l'America anch'essa invariata, quindi mercati sostanzialmente stabili e fermi come indici. Euro vicino a quota 1,37, questa mattina l'Asia aveva chiuso anch'essa sostanzialmente invariata, meno 0,17% il Nikkei, e quindi a Tokyo un po' peggio Hong Kong con l'Hang Seng che ha perso l'1,36%. Dentro però il listino c'è un po' di tutto, perché Buzzi Unicem guadagna il 6,6%, ma è arrivato a guadagnare il 7%, Fiat Industrial il 2%, quindi auto, camion e trattori, macchine in movimento terra, Exor più 1,70%, Fiat Auto invece è ferma, male di Asorin meno 4%, Ubibank meno 1,3%. La notizia di oggi sulla borsa però riguarda la borsa stessa, e cioè il fatto che la borsa di Milano e la borsa di Londra, che si sono fuse, lo ricorderete, il London Stock Exchange, hanno annunciato l'accordo di fusione anche con la borsa di Toronto, e quindi c'è uno sbarco vero e proprio da parte delle borse italiana e inglese dall'altra parte dell'Atlantico, e quindi l'operazione è interessante. L'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore ha intervistato il numero uno della borsa italiana, Raffaele Irusalmi, sentiremo l'intervista nel corso del programma. E poi terzo tema che tratteremo, anche per non parlare solo di cose di casa nostra, visto che poi appunto non c'è molto da dire, insomma, torneremo a fare il punto su quello che sta capitando come dinamica mondiale nei mercati, quindi tensioni inflazionistiche in Cina che ha alzato i tassi di interesse perché c'è un rischio bolla anche in Cina sul mercato immobiliare. Tensioni sui prezzi delle materie prime continuano, infatti, sia quelle alimentari sia quelle, diciamo, non alimentari, e dati sull'occupazione obiettivamente deludenti anche in questo inizio dell'anno, per cui insomma, in un articolo che abbiamo letto con molto interesse di Giulio Sapelli, un economista che ogni tanto è nostro ospite e che lo sarà nella seconda ora del programma, si citavano i tre cavalieri oscuri che s'aggirano contro la globalizzazione, quindi sarà il momento anche per rifare il punto sulle tre grandi forze in questo momento, le tre grandi direttrici che dominano l'economia mondiale, non solo quella italiana, visto che anche noi siamo all'interno e ci siamo con tutti e due i piedi della globalizzazione. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora, rapidamente, la notizia in breve: vi anticipo che il governatore della regione Lazio, Renata Poverini, non parteciperà oggi al programma, l'abbiamo cercata per motivi di altri impegni presi non riesce a intervenire, quindi torneremo, il tema riguardava la sanità nel Lazio, alcuni sprechi e alcuni tagli a nostro avviso non giustificati, come quello dei posti letti dell'ospedale per educare i bambini con problemi neuromotori, l'ospedale Santa Lucia di Roma. L'abbiamo cercata e vi assicuro che c'era anche una disponibilità, ma non siamo riusciti a incastrarla. Vedremo domani, nei prossimi giorni, le notizie in breve. Petrolio a 87,4 dollari in America, però sempre forte a Londra. Ne parleremo del matrimonio fatto tra London Stock Exchange, quindi anche Piazza Affari, e la canadese TMX Group. E il nuovo gruppo sarà la società più grande per numero di piazze borsistiche, è la quarta dopo e superiore al Nasdaq come importanza in termini di ricavi annuali. 5 gli inglesi presenti, 7 canadesi, 3 italiani. Il vicepresidente italiano sarà Paolo Scaroni, che è l'amministratore delegato del gruppo Eni. Qualche dato positivo arriva dalla Federal Reserve, dalla banca centrale americana, che per voce del suo presidente Ben Bernanke dice: la ripresa sembra essersi rafforzata, però, e qui torniamo poi al tema che riproporremo alle 18:10, il tasso di disoccupazione resterà elevato per diverso tempo. E poi l'allarme sui conti pubblici americani: l'America sta viaggiando con un deficit vicino al 12, forse 13%, una cifra che sarebbe considerata enorme da Grecia, da Irlanda, in Europa. E dice Ben Bernanke: i conti pubblici sono deteriorati. Lo stato di salute delle finanze pubbliche americane è deteriorato in modo consistente, è necessario agire sul deficit e il debito ben prima che i mercati ci costringano un intervento. E io ricordo sempre che sono deteriorati perché se sono state scaricate sul lato pubblico tutte le inefficienze, le perdite, le svalutazioni del settore privato, Wall Street e varie agenzie, diciamo, sui mutui americani in primis. Banche d'affari, quelle che stanno ridistribuendo ampiamente i bonus, non ho mai smesso di farlo, bonus per i manager, neanche nel 2009. Comunque, non voglio tornare su un tema che mi sta quasi sfinendo, tanto non si ottiene niente. Andiamo avanti. Toyota vola in borsa invece a Tokyo dopo i risultati che hanno visto quadruplicare l'utile, e dopo soprattutto il maxi richiamo, ricorderete, di oltre 8 milioni di auto tra fine 2009 e 2010, secondo l'indagine che è stata conclusa dal Ministero dei Trasporti americani. Ebbene, l'elettronica delle auto non era da considerarsi causa dell'accelerazione involontaria delle vetture. Nissan, vanno bene, gruppiato. Ieri abbiamo celebrato BMW, Volkswagen, Toyota. Anche Nissan fa più 78% nel terzo trimestre, cioè tra ottobre e dicembre quarto trimestre, scusatemi, del 2010, e a rialzo anche tutte le stime per il 2010-2011. Cioè l'utile è stato in quel trimestre di circa 710 milioni di euro. E torna l'utile anche Peugeot Citroën, i profitti vanno un miliardo e 130 milioni, e questo è l'utile netto, a fronte di un rosso di Peugeot Citroën di un miliardo e 100 milioni dell'anno prima. E quindi dopo Peugeot Citroën, oggi sempre dalla Francia, anche Renault ha annunciato che rimborserà in anticipo entro fine aprile i 2 miliardi di euro che deve ancora pagare al governo centrale dei tre concessi. Parigi concesse 3 miliardi a Peugeot e 3 miliardi a Renault durante la crisi. No, questo lo dico perché siccome molte volte c'è la polemica sulla Fiat che riceve aiuti di Stato, li ha ricevuti, ci mancherebbe. Però, attenzione, anche in Francia non sono mai da meno, lo Stato francese ha dato 3 miliardi a Renault e 3 miliardi a Citroën, Peugeot Citroën, nel periodo più lungo della crisi, 6 miliardi in totale. In questo quadro, ricordo appunto Volkswagen, anche Renault ha migliorato moltissimo i conti, tant'è che appunto sta ridando i soldi al governo. Ecco perché diciamo attenzione, Fiat Auto non può solo invocare la difficoltà del mercato, i concorrenti, che si chiamano appunto Peugeot, Citroën, Renault, Volkswagen, stanno macinando utili e ricavi, quindi forse, pur confermando che abbiamo sempre apprezzato la proposta di Marchionne a Mirafiori, è il caso che lo stesso Marchionne inizi a tirar fuori i modelli, vedremo, perché poi c'è il Salone dell'Auto di Ginevra, ma non mi sembra che il gruppo Fiat arriverà molto, spero di sbagliarmi. Andiamo avanti. Tra l'altro la Commissione Europea ha aperto un'inchiesta formale sugli aiuti che la Polonia intende accordare al gruppo Fiat, e Moody's però ha confermato il rating BA1 per quello che riguarda il gruppo torinese, mi sembra un po' eccessivo a questo punto, il gruppo di Detroit e Torino, il gruppo italo-americano. L'Osservatorio dei Distretti oggi ha pubblicato i dati, sostanzialmente il 2011 secondo l'Osservatorio dei Distretti Italiani sarà migliore per fatturato ma non per occupazione, si conferma quindi quanto dice anche l'America sul fronte occupazionale, qui c'è una ripresa dell'economia senza creazione di posti di lavoro, jobless recovery, ahimè, e questa è la fotografia che scatta l'Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani. Che vanno, migliorano il loro fatturato soprattutto, se non esclusivamente, grazie all'export. Allora, non c'è da festeggiare quando si parla di 1000 morti sul lavoro, e non c'è da festeggiare anche se i morti sono leggermente sotto i 1000, però c'è da ricordare che per la prima volta il numero di incidenti mortali sul lavoro è sceso nel 2010 sotto le 1000 unità. Una tendenza positiva, ripeto, è difficile parlare di tendenza positiva quando stai commentando quasi 1000 morti sul lavoro, però insomma il dato obiettivamente è meglio dei dati precedenti degli anni scorsi. È vero che la Fiat, leggo chi ha restituito i soldi presi prestati dalle banche, il prestito convertendo, ma ho semplicemente fatto notare, non perché sia giusto dare i soldi, Marchionne non li ha voluti i soldi, dare i soldi alla Fiat, ho fatto solo notare che siccome spesso la polemica sulla Fiat è la Fiat prende i soldi, ha preso i soldi dello Stato, la Francia ha messo 6 miliardi che adesso Renault e Citroën Peugeot stanno restituendo a fine. Poi tranquillizzo anche chi ci scrive, non sono più serio, ne vedremo delle belle anche oggi, è semplicemente la gola che ogni tanto mi tradisce, ma andiamo avanti, c'è poi insomma questa iniziativa a cui dedicheremo anche una piccola controcopertina domani nei nostri GR. Dopo l'incontro di Palazzo Chigi di oggi, il ministro dell'economia Tremonti è partito per Reggio Calabria. Sì, Reggio Calabria. Cioè, vuole testare tra oggi e domani la rete di trasporti e quella viaria del Mezzogiorno. Come qualunque passeggero si sta recando a Reggio Calabria in treno, con lui anche il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, e Luigi Angeletti, segretario della UIL. Partiti da Roma, arriveranno a Reggio Calabria in serata e domani torneranno in autobus nella capitale. Tremonti, Bonanni e Angeletti però nella tratta Roma-Napoli hanno viaggiato in uno dei salottini separati delle carrozze di prima classe, tutti e tre vestiti casual, in maglione, tutti e tre con borse a tracolla sportive. Nessuno dei passeggeri li ha avvicinati durante il viaggio, vogliono testare lo stato delle infrastrutture italiane. E invece però poi hanno cambiato a Napoli e hanno preso la seconda classe sia Tremonti che Bonanni e Angeletti, un intercity diretto a Siracusa, per lo più studenti extracomunitari. Poi a sorpresa Moretti, che era il ministro legato al Friuli dello Stato, ha chiamato il ministro Tremonti, gli ha dato il benvenuto, ha saputo che siete nostri clienti, e il ministro ha attaccato Moretti tra il serio e il faceto e gli ha detto insomma come vanno i servizi a bordo. Beh, insomma, mica tanto bene, manca l'acqua dentro i due bagni della carrozza, se ci fosse l'acqua sarebbe meglio, dice Tremonti, che poi passa il telefono a Bonanni. E poi comunque alla fine Tremonti dà un giudizio positivo, temevo peggio, è anche abbastanza pulito, tutto sommato è dignitoso. Il treno parte in perfetto orario, il ministro ha detto che casino che abbiamo combinato, insomma comunque questo era la, il viaggio che sta continuando. Allora io dico, visto che stiamo festeggiando i 150 anni dell'Unità dell'Italia, a me questo viaggio, adesso, non siamo più ai tempi in cui Sidney Sonnino, qualcuno se lo ricorda, andò al sud per scoprire un'Italia che in alcuni casi si avvicinava veramente al Nord Africa, allora 1870, vado a memoria, il viaggio e il rapporto alla commissione parlamentare sullo stato del sud, uno stato disastroso. Beh, lì aveva un senso partire, fare questi viaggi. Ora, insomma, per sapere come vanno i treni, con massimo rispetto, benissimo che vadano fino a Siracusa in seconda classe, che tornino in autobus, potevano chiedere anche ai nostri ascoltatori che li prendono tutti i giorni. Beh, che bello spot per le ferrovie, non lo so, nel momento in cui il ministro Tremonti dice a Moretti manca l'acqua in tutti e due i bagni della carrozza, non so che bello spot sia, lo dico a chi scrive. E comunque questo lo vediamo spesso, purtroppo, sul trasporto locale delle ferrovie dello Stato. Comunque, restiamo in tema dei festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia, con una piccola polemica, così capite subito che tanto non sono più tranquillo oggi, e poi arriviamo anche al resto. E sì, la polemica questa volta, ieri ce l'abbiamo avuta con la Regione Lazio, oggi ce l'abbiamo con la provincia di Bolzano. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, al di là del fatto che non voglio tornare sulla festa del, che secondo noi si può tranquillamente fare il 17 marzo, Bossi ha detto bisogna lavorare, si deve lavorare, vabbè. No, ce l'abbiamo con il presidente della provincia di Bolzano, Luis Dunvalder, che è intervenuto, tra l'altro l'avete visto l'altro ieri, ha detto no, noi non parteciperemo all'iniziativa in cui ogni regione porta il suo contributo, non abbiamo niente da festeggiare per questi 150 anni dell'Unità d'Italia. L'autonomia non è un regalo. Stamattina lo ha ribadito con Alessandro Milan a 24 mattino su Radio 24. Sentiamo questo passaggio. Io ho detto, diciamo, che noi abbiamo un'altra storia. Lei deve capire che 150 anni d'Italia comprendono tutto dal 1861 fino al 2011. E perciò lei sa che noi nell'anno 1919 non abbiamo scelto liberamente lo Stato italiano, noi eravamo per oltre mille anni con l'Austria, siamo stati staccati dall'Austria, siamo diventati una minoranza austriaca che vive in Italia. E noi dopo 1919 abbiamo sofferto moltissimo, molti dei nostri genitori hanno dovuto pagare delle multe, anzi hanno passato anni in carcere solo perché volevano parlare in tedesco, volevano vivere la propria cultura, eccetera eccetera. Quindi lei dice ci sentiamo una minoranza austriaca e sì, quindi cosa abbiamo da festeggiare? Sa cosa dicono molti, e allora se non è così rinunciate, che ne so, a tutti i privilegi della provincia autonoma. Insomma, è un po' qualunquismo questo, un po'. No. Ma lei deve sapere che noi nel 45 abbiamo chiesto l'autodeterminazione. Lo Stato avrebbe potuto darci tranquillamente il diritto di autodeterminazione per poter decidere se noi vogliamo tornare sotto Austria. Allora le potenze vincitrici hanno detto no, il territorio rimanga italiano, però lo Stato italiano deve dare a queste popolazioni un'autonomia legislativa ed amministrativa. Vuol dire allora lo Stato avrebbe potuto rinunciare a questo territorio, non l'ha fatto, e perciò ha ricevuto questo territorio con l'aggravio dell'autonomia legislativa ed amministrativa. Eh no, caro Dunvalde, perché ne parliamo in un programma di economia, vi chiederete voi? Ma insomma, allora, attenzione, e con tutte le regioni del nord del paese, a parte che sono passati dalla prima guerra mondiale, siamo quasi a 100 anni, per cui un po', e anche sulla seconda, ma comunque andiamo sul concreto, sul presente, perché l'Alto Adige è una bellissima regione, Alto Adige, è una bellissima regione, ben gestita, sia il Trentino che l'Alto Adige. Abbiamo elogiato moltissime volte quel tipo di federalismo, il fatto che i soldi non vengono sprecati come in Sicilia, come in altre regioni autonome, inclusa anche purtroppo la Sardegna. Massimo elogio all'Alto Adige, al Friuli e al Val d'Aosta, ci mancherebbe, però almeno riconoscere, caro presidente Dunvalder, che siete l'unica provincia, voi il Trentino, di tutta l'Italia in cui ogni abitante riceve 2.208 euro in più rispetto a quanto versa, assieme al Friuli, per carità, ma il Friuli non si è assolutamente sognato di dire le bestialità che ha detto lei. Unica regione del nord in passivo, cioè che riceve più di quello che versa. In Lombardia siamo quasi a 3.000 euro, in Veneto 2.500, attivo, cioè versiamo ognuno di noi 3.000 euro più di quanto riceviamo. Allora, io capisco l'idea di storia, capisco ricordare che voi siete stati annessi, non volevate esserci, ma ogni tanto ricordare anche Ischei, no? E allora, caro presidente Dunvalder, visto che tra l'altro domani si celebra il giorno del ricordo, le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata, se frega qualcuno, io sono per metà, diciamo, di parenti profughi proprio di quelle terre, che invece erano italiane da secoli e avrebbero diritto di essere italiane. Per favore, mettiamo la storia da parte, è l'unità d'Italia. Se vi fa così schifo l'Italia, ridateci 2.200 euro, perché sennò... E io vado! Ok, e adesso lo stacchetto. No, intanto, questa dimostrazione che non ce l'abbiamo col Sud, con il Lazio, con nessuno, ce l'abbiamo con chi, diciamo, è ingrato, spreca, gestisce male i soldi. Nel caso dell'Alto Adige assolutamente non ci sono sprechi, i soldi vanno ben utilizzati. Però grazie, 2.200 euro in più di quanto, per non parlare delle agevolazioni per le mamme che hanno figli, degli asili pagati. Allora, bravissimi nella gestione, però riconoscete che con questi 2.200 euro è anche più facile, no? E sono soldi nostri. Chi ha detto grazie è un italiano di Bolzano che oggi ha reso l'Italia assolutamente... ha contribuito a rendere il nostro paese, dal punto di vista sportivo, un paese degno di nota. Direte, cosa c'entra? Ma 2.200 euro nel momento in cui parliamo di federalismo tutti i giorni, che per noi vorrà dire probabilmente, se continua così, il rischio di un aumento della pressione fiscale dei comuni, non so, avere qualcuno che si sveglia la mattina e dice no, noi non vogliamo festeggiare l'Italia, però i 2.200 euro, quelli sì, quelli non hanno passaporto, E allora, dicevo, un bolzanino oggi, Christoph Innerhofer di Brunico, provincia di Bolzano, ha vinto il Super G, campione del mondo di Super Gigante. Il nostro Dario Ricci lo ha raggiunto chiedendogli, al di là dell'analisi sulla gara, soprattutto una dedica all'Italia, vista la celebrazione dei 150 anni dell'unità. Ho fatto una bellissima gara, ho attaccato da su in cima fino in fondo e non sono andato in difesa come alle ultime gare, ho proprio cercato di dare di tutto e a fare più veloce che potevo e sì, ho fatto una bellissima manche. Da bolzanino, ti senti di dedicare questo successo all'Italia nell'anno del 150esimo dell'unità, visto che anche in questi giorni ci sono state polemiche riguardo questa festività, in particolare per quanto riguarda proprio la provincia di Bolzano? Credi che questa medaglia abbia un valore anche in quest'ottica? Certo, intanto parto per la federazione italiana e sulla tuta dell'Italia e certo che lo dedico all'Italia. Oh, bravo Christoph Innerhofer. E torniamo a parlare non di federalismo o di in qualche modo scarsa riconoscenza, ma torniamo a palla sui mercati, poi vi ripeto la fusione tra la borsa di Londra e Milano con quella di Toronto e poi tutta la la manovra, le iniziative economiche annunciate oggi dal Consiglio dei Ministri. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms. Allora, facciamo il punto sulla borsa. Dunque, meno 0,22% il finale per Piazza Affari, meno 0,43 per Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,50, l'America meno 0,13 in questo momento, euro su dollaro a quota quasi 1,37, 1,36,90. Due titoli tra quelli a maggiore capitalizzazione spiccano su tutti, Buzzi Unicem più 7% e Diasorin meno 4,22%. Come sempre il collegamento con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore e dell'agenzia di stampa del gruppo Sole 24 Ore. Per questi titoli e altri, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Buzzi Unicem da un lato e Diasorin dall'altro. Ma oggi è stata la migliore tra i titoli a maggiore capitalizzazione, e ricordiamo che ieri i titoli erano stati al contrario penalizzati dopo la pubblicazione del preconsuntivo 2010 che aveva soprattutto annunciato che ci sarà una svalutazione da 100 milioni che influenzerà fortemente il risultato netto. Dopo le vendite di ieri tuttavia gli investitori hanno valutato che i prezzi a cui il titolo era sceso potessero rappresentare una buona occasione di acquisto e oggi si sono ricoperti in massa sul titolo, spingendo al rialzo tutto il settore costruzioni, perché anche altre società come Italcementi oggi hanno guadagnato terreno in borsa. Quindi ricordando poi l'annuncio di ieri di Buzzi, oggi gli investitori si sono concentrati sulla seconda parte dell'annuncio, quando la società rendeva noto che nell'ultima parte dell'anno si erano verificati dei miglioramenti che ritenevano potessero trovare conferma anche durante il 2011 e quindi sulla business dei prossimi mesi. Quanto a Diasorin invece sono una flessione tecnica secondo quanto hanno comunicato dalle sale operative. Il titolo infatti era stato premiato dagli investitori in tutte le ultime settimane, ad esempio dal 25 gennaio aveva messo a segno un avviato dell'11,3%, in una giornata come quella di oggi priva di particolari spunti gli investitori sono passati ai realizzi. Questo per quello che riguarda Buzzi Unicem e Diasorin. Poi vedo molti messaggi, per carità, sul tema dell'Alto Adige, va bene, a parte le offese, tutto il resto va bene, dire che la Dalmazia, l'Istria non erano italiane, erano venete, certo, non esisteva l'Italia, ragazzi, stiamo a festeggiare i 150 anni, prima non c'era, che discorsi sono? Mamma mia, delle volte la polemica, altri dicono, ma insomma non si rende conto che si informi, non cito l'epiteto con cui vengo chiamato, inizia per C, finisce per One, ma perché lei non sa che le province hanno certe competenze, la sanità è di competenza regionale, le province autonome di Trento e Bolzano sono in realtà, hanno delle autonomie pari a quelle delle regioni, che cosa avremmo detto di strano se non ricordare che appunto ricevono 2200 euro in più di quanto versano ogni anno, mentre noi qui nel Lombardo-Veneto, in Piemonte, in Emilia siamo sempre in deficit, cioè paghiamo più tasse di quelle che riceviamo. Qual è la bestialità che abbiamo detto? Boh, forse sono abitanti della provincia di Bolzano, non so, chiedo. E abbiamo confermato che i soldi vengono ben spesi, mentre in Sicilia, ci occupiamo della Sicilia come regione autonoma una volta a settimana, della Calabria e di altre regioni non autonome una volta a settimana, se anche una volta attacchiamo la provincia autonoma di Bolzano, e che sarà mai dopo quello che ci ha detto e ci ha ricordato il simpatico presidente Drumwalder? Va bene, andiamo avanti, dai, i titoli in borsa. Il settore auto oggi vede Fiat avere due dinamiche molto molto diverse, Paolo, perché da un lato Fiat Industrial, quindi camion e trattori, va abbastanza bene, più 2% secondo il miglior titolo, Exor va bene, più 1%, Fiat invece resta al palo. Sì, esattamente, proprio anche l'intero... Anzi, perde alla fine lo 0,80, così sono ancora più preciso. Ha chiuso, sì, esatto, a meno 0,82. Oggi tutto il settore auto si è mosso a due velocità ed è stato contrastato da notizie di diverso segno. Da una parte, infatti, sono arrivati i dati sulle vendite mondiali di alcune case tedesche in gennaio, in particolare per quanto riguarda i marchi dell'auto di gamma come Mercedes, Audi e BMW, che sono stati positivi e apprezzati dal mercato. Dall'altra parte, invece, sono arrivati i risultati, i conti 2010 i risultati di bilancio di Peugeot Citroën, che non sono piaciuti agli investitori. Il titolo Peugeot a Parigi ha perso oltre il 4%, in particolare per alcuni dati sui margini del 2010 e per obiettivi 2011 ritenuti troppo vaghi dagli analisti, e questo ha pesato su tutto il settore auto europeo, che infatti dopo una partenza positiva a livello di sottoindice ha chiuso in calo di mezzo punto percentuale. Fiat quindi ha risentito di questa seconda dinamica, mentre Fiat Industrial, che come ricordiamo spesso è ritenuta dagli operatori un business meno ciclico e quindi più affidabile, più difensivo, è stata premiata oggi con un rialzo del 2%, trascinando tra l'altro rialzo il controllante Exor, che ha beneficiato quindi anch'essa del rialzo di Fiat Industrial, guadagnandolo 0,96%. Allora, KM da un lato ma Montefibre dall'altro, sui titoli che più hanno guadagnato. Paolo Paranetto. Entrambi i titoli non hanno avuto motivazioni specifiche, gli operatori segnalano rialzi decisi, ma segnalano inoltre che entrambi i titoli erano stati oggetti di una consistente volatilità nelle ultime sedute. Ieri Montefibre aveva perso circa il 3%, e quindi oggi questo recupero comunque non viene spiegato da motivazioni particolari e non ci sono quindi motivi specifici. Per quanto riguarda l'altro titolo che citavi prima della pausa, invece, tornando sul FTSE MIB, che è Pirelli, è salito dell'1,36% in borsa. Qui, come ricordavi, ci sono notizie che vengono dai concorrenti Michelin e Bridgestone, che hanno entrambi annunciato un aumento dei prezzi degli pneumatici. Gli operatori quindi iniziano a mettere in conto la possibilità di una mossa analoga da parte di Pirelli, che ovviamente avrebbe un impatto positivo sulle vendite del gruppo. E certo, poi sui bancari oggi di nuovo qualche debolezza. Tra l'altro devo dire che il nuovo numero uno di Unicredito Ghizzoni ha detto: confermiamo gli obiettivi per l'Italia nel 2011. Detto ciò, UbiBank ha perso l'1,90, Mediobanca l'1,70, Azimut meno 1,70, Risparmio Gestito, Intesa San Paolo meno 1%, Generali lo 0,80%, e poco altro sui bancari, devo dire oggi, perché in realtà abbiamo un titolo assicurativo come Fondiaria che guadagna l'1,5%, il resto, il Banco Popolare, è sostanzialmente invariato, più 0,11%, non è cosa, è Unicredito perde lo 0,40%. Cito per concludere Parmalat meno 1,60%, Estima Microelectronics meno 1%, sul fronte opposto invece Mediaset più 1,65%. Motivi su Mediaset? No, Mediaset è nessun motivo particolare, gli analisti semplicemente ricordano le domande e la curiosità dei cronisti che la vicenda di Mediaset sembra totalmente slegata dalle vicende giudiziarie del che i giorni coinvolgono il Presidente del Consiglio. Fondiera l'abbiamo detta, Snamrete Gas più 1,20 come Atlantia, Exor più 1%, Enel più 0,70, Terna mezzo punto percentuale di rialzo, in questo momento Wall Street perde appena lo 0,12%, grazie a Paolo Paronetto. Grazie a voi. Allora, prima la buona notizia e poi le risposte. Riguarda il caso dell'ospedale Santa Lucia, ieri abbiamo dedicato uno spazio a questo, cioè ospedale di eccellenza nel Lazio per il recupero di bambini con problemi neuromotori, tagliati i posti letto da 320 a appena 140, con rischi chiusura, stipendi che non arrivano, sono appena arrivati quelli di gennaio, ma aspettavano da mesi gli operatori, in una regione che ha un buco sanitario invidiabile e che lo sta riducendo, per carità, ma perché ridurlo su quello quando aumentano le consulenze? C'è chiamato un consulente della Regione Lazio, aumentano le spese per il responsabile dell'ufficio stampa, 200.000 euro, aumentano le spese dei consiglieri, bisogna tagliare per forza i posti letto, gli stipendi di chi aiuta i bambini con problemi neuromotori. In attesa della Polverini ci scrive una mamma ci ricorda che domani vi sarà una manifestazione organizzata dal coordinamento Salviamo Santa Lucia di Roma alle 11.30 di fronte all'ospedale Santa Lucia. Scenderanno in piazza per difendere il diritto alla salute dei bambini. Grazie a lei e in bocca al lupo soprattutto. Sull'autonomia dell'Alto Adige. Allora, devo chiudere perché mi fanno segno che devo lanciare l'intervista a Raffaele Rusami. Una battuta sola. Allora, siamo sicuri? Non è vero che uno schiavo pagato bene resta uno schiavo, questo chi lo scrive non ci capiamo. B, Siamo sicuri che se gli, mettiamolo così, che se gli altoatesini andassero in Austria riceverebbero 2200 euro più di quanto versano? Perché verrebbero trattati come, mi passi il termine, i terroni dell'Austria, eh? Dai, per favore, per favore. Poi schiavo di che? C'è una regione autonoma che ha la lingua, il bilinguismo, il trilinguismo nella parte latina, ma di cosa stiamo parlando? Per favore, non si vuole dire che l'Italia sia il posto per dove vivere, ma neanche dire no, non partecipiamo all'unità perché siamo schiavi, però ti becchi ogni anno 2200 euro in più di quelli che versi, basta. La fusione tra la borsa di Londra e Milano con quella di Toronto, poco fa l'annuncio che le trattative sono in corso, diventerà una borsa più grande del Nasdaq. Il collega dell'agenzia di stampa Radio Colle sulle 24 ore, Guido Maurino, ha intervistato Raffaele Irusalmi, che l'amministratore delegato della borsa italiana. Sentiamo l'obiettivo di questa fusione. Il vicepresidente sarà Paolo Scaroni, quindi numero uno dell'ENI. È una fusione tra equal, come si dice in inglese, cioè una fusione alla pari, ma dove in realtà London Stock Exchange Group mantiene il controllo della governance attraverso il numero dei consiglieri che saranno presenti nel consiglio d'amministrazione. Quindi l'LSE Group mantiene 8 rappresentanti, i canadesi ne avranno 7. Il presidente sarà un presidente canadese, mentre l'amministratore delegato sarà Xavier Rolet, che è l'attuale amministratore delegato dell'LSE Group. Quale sarà l'impatto per Milano? Ma l'impatto per Borsa Italiana secondo me sarà molto positivo. Noi manteniamo responsabilità su aree chiave per il nostro mercato, che sono l'equity e il fixed income, tutta la parte del reddito fisso, l'MTS, il MOT, il mercato degli ETF, dove siamo tra l'altro leader a livello europeo, e sostanzialmente ci darà l'opportunità questa operazione col Canada di ulteriormente ampliare il raggio d'azione per questi mercati, in particolare per l'MTS, che è il mercato leader in Europa, il mercato leader elettronico in Europa dei titoli di Stato, che ha anche una forte componente e presenza di titoli corporate e di titoli sovranazionali e di altri prodotti che stiamo per aggiungere, e che quindi troveranno nella possibilità di espandere questa attività in Canada delle opportunità molto interessanti. Quindi direi che l'operazione, per quanto ci riguarda, la vediamo con molto ottimismo e siamo molto contenti che sia stata possibile. Sono previsti tagli o riduzione di personale, in particolare riduzione del personale su Milano? No, assolutamente no. Diciamo che la parte, diciamo, di sinergie per quanto riguarda i costi sarà concentrata più che altro sulla tecnologia. E sicuramente comunque non ci sono piani di nessun genere che vedano potenziali riduzioni di organico in Italia, per cui da questo punto di vista siamo assolutamente tranquilli. E anche come attività Milano continuerà a fare le stesse cose che faceva prima? Milano continuerà esattamente a fare le stesse cose che faceva prima, con in più appunto un mercato molto grande come quello canadese, che sarà un'opportunità per ampliare il numero di clienti e il numero di soggetti a cui vendere anche i nostri prodotti, e dove peraltro Toronto, che è un po' il centro di questo mercato canadese, è anche una comunità italiana molto molto importante, dove ci sono 500.000 abitanti di origine italiana, dove quindi la presenza, diciamo, italiana è molto forte, e questo ci dà anche l'opportunità di stringere ancora di più il legame con questa città. Nel nuovo consiglio di amministrazione del gruppo, che nascerà dalla fusione fra la borsa di Londra e la borsa di Toronto, l'Italia vede ridurre il numero di consiglieri da 5 a 3, anche se diventano un po' l'ago della bilancia. Beh sì, questa sua osservazione è corretta. Effettivamente c'è una riduzione ovviamente in valore assoluto, probabilmente se la leggiamo in valore relativo la sua interpretazione mi sembra corretta. Quanto tempo ci vorrà perché l'integrazione fra le due borse vada a regime? Ma i tempi sono abbastanza lunghi, perché dobbiamo passare da un processo abbastanza complesso di autorizzazione a livello regolamentare in Canada. Io mi aspetto che, se tutto va bene, diciamo che non ci sono ostacoli sulla strada particolari, per settembre-ottobre dovremmo essere in grado di completare l'operazione. Due brevissime note che arrivano dagli ascoltatori al 349-238-6666. La manifestazione di domani per l'ospedale Santa Lucia, ce l'abbiamo a cuore. è sotto la Regione Lazio alle 11:30, non davanti all'ospedale, e correggo quindi le informazioni precedenti. E poi ci scrivono ascoltatori del Lazio che la Giunta del Lazio il 28 gennaio ha in 3 delibere destinato 10 milioni di euro, leggo testualmente, a 3 ospedali religiosi. Attendiamo verifiche, attendiamo sempre Renata Polverini, nostra ospite, ribadiamo l'invito, l'abbiamo contattata, oggi non poteva, speriamo nei prossimi giorni. Molti di voi però sono incuriositi, adesso di Bolzano e dell'Alto Adige non parlo più, sono incuriositi dal viaggio in treno che stanno compiendo, devo dire a sorpresa, perché lo stesso numero uno delle Ferrovie dello Stato li ha chiamati, non sapeva che fossero suoi passeggeri, il ministro Giulio Tremonti dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, e il segretario della CISD Raffaele Bonanni, il segretario della UIL Luigi Angeletti. Come base, come stacco, potevamo usare due canzoni, uno la conoscete benissimo è Azzurro, l'altra è La Locomotiva di Guccini, abbiamo preferito la prima. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Allora, dopo il Consiglio dei Ministri, il ministro dell'economia Giulio Tremonti con appunto i due segretari nazionali di CISD e UIL sono montati prima su un treno da Roma a Napoli, è un Frecciarossa, prima classe col salottino, e fino a lì nessun problema, nessun disturbo, erano appunto nel salottino riservato e privato. Neanche un prete. Poi invece a Napoli hanno cambiato e hanno preso un Intercity, quelli che si chiamano Intercity, da Napoli a Lamezia Terme, e lì sono iniziati i primi problemi. Perché ha chiamato lo stesso numero uno di Trenitalia, Mauro Moretti, sono ancora in viaggio i tre, e ha detto, ho saputo che siete dei nostri clienti, e Tremonti gli ha detto, Moretti gli ha chiesto come va, beh, mica tanto bene, manca l'acqua in tutti e due i bagni della carrozza, se ci fosse sarebbe meglio. Comunque, ha continuato Tremonti, temevo peggio, è anche abbastanza pulito, tutto sommato e dignitoso. Questo è il tratto che i tre hanno compiuto fino a un'ora fa da appunto Napoli alla Lamezia Terme. Poi hanno cambiato di nuovo e hanno preso un treno regionale, quindi dal Frecciarossa all'Intercity al regionale. Non c'è Leone, chissà dov'è. E allora lì invece i passeggeri, studenti, ha scherzato il ministro Tremonti con i passeggeri e i giornalisti, ha detto che la stazione di Lamezia oggi è più pulita del solito, ha fatto notare un passeggero, ci sono anche due biglietterie aperte, contrariamente a quanto accade di solito, tant'è che Tremonti ha detto, vabbè, metteremo i nostri fantocci con le nostre sembianze sul treno in modo che si creda che stiamo viaggiando anche noi. Ma il treno, e poi sono partiti alle 17:10 appunto dalla Lamezia Terme a Reggio Calabria. Buon viaggio a Giulio Tremonti, a Luigi Angeletti e a Raffaele Bonanni, che domani ripercorreranno all'indietro chiaramente il viaggio con un autobus, con un autobus di linea, quindi scopriranno anche lì altre cose, immaginiamo. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Va bene, mentre continua il viaggio del ministro dell'economia e dei due sindacalisti della CISL e della UIL, noi iniziamo un viaggio in quello che è successo oggi al Consiglio dei Ministri. 349-238-6666 per i vostri SMS. Dicevo, poco fa il giudizio di Roma Marcegaglia, giudizio sospeso, dice la Presidente di Confindustria, poco impatto da quello che è stato deciso oggi. Allora vediamo di capire che cosa si è deciso oggi. Il Presidente del Consiglio ha detto, insomma, al via una nuova fase per il rilancio dell'economia, e ancora aggiunto in questo modo potremmo arrivare a una crescita del PIL quest'anno dell'1,5%. Per tornare a crescere l'economia ha bisogno di una scossa, per questo noi abbiamo predisposto un piano per la crescita che secondo noi dovrebbe dare una grande scossa all'economia, forse una delle più forti della storia italiana. L'obiettivo è di arrivare a un incremento del prodotto interno lordo, che è la nostra ricchezza, del 3%, magari anche del 4% nel giro di 5 anni. Porteremo in Consiglio dei Ministri, nel prossimo Consiglio, innanzitutto la modifica che è fondamentale dell'articolo 41 della Costituzione, vale a dire sarà lecito intraprendere e fare tutto quello che non è espressamente vietato dalla legge, senza essere costretti a chiedere prima un'infinità di autorizzazioni come succede ora. Finora troppi vincoli hanno creato una sorta di medioevo burocratico intorno alle imprese e noi vogliamo appunto abbattere questo muro, vogliamo attuare una vera rivoluzione liberale appunto con la modifica dell'articolo 41 della Costituzione, cioè vogliamo liberare l'Italia dalla mentalità statalista che ostacola gli investimenti, che distrugge ricchezze e lavoro. Rilanceremo anche il piano casa, riformeremo i servizi pubblici locali con forte apertura alle imprese private per guadagnare efficienza, per guadagnare qualità, e daremo anche attuazione al nostro piano per il Sud, che si basa sulla fiscalità di vantaggio, che comporta meno tasse per le aziende e ha delle zone a burocrazia zero. Così, così il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in un'intervista molto discussa, molto criticata al TG1 lo scorso 2 febbraio. E appunto oggi c'era l'appuntamento importante. Abbiamo detto, ma lo diciamo con massimo rispetto, che forse l'elefante ha partorito un topolino, scusatemi, perché il CDM obiettivamente ha dato via libera alla riforma dell'articolo 41, 97 e 118, che sul piano, diciamo, dell'impostazione costituzionale sono anche importanti, non hanno obiettivamente un impatto immediato sulla crescita economica. Poi il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla riforma degli incentivi, però appunto è un via libera alla riforma, e poi non ha approvato invece il disegno di legge sulla concorrenza. E però il Presidente del Consiglio è tornato sul tema e ha detto: beh, in questo modo potremmo arrivare a una crescita del PIL nel 2011 dell'1,5%. Io faccio notare che per ora i vari istituti previsionali, dal Centro Studi Confindustria ad altri, stimano una crescita intorno all'1, forse 0,9-1, vediamo come andrà la produzione industriale. Comunque, sentiamo Berlusconi sulla stima per quest'anno del PIL. Dunque, la crescita del PIL noi l'abbiamo valutata nell'1,5%, e quindi pensiamo che questo sia il minimo, tendiamo naturalmente a migliorare questa previsione. Alcuni di questi provvedimenti potevano forse essere fatti anche prima, ma tutta la nostra attenzione è stata per tutto il periodo precedente tesa a evitare gli sprechi, evitare le spese, a andare in quella direzione, e credo che abbiamo fatto un grande lavoro perché siamo riusciti a contenere il nostro deficit, il nostro debito pubblico. E poi la riforma dell'articolo 41 approvata, ma da perfezionare. Il governo non è che abbia riformato l'articolo 41, un articolo della Costituzione, ci vuole una maggioranza qualificata in Parlamento. Ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale per riformare anche l'articolo 41. Berlusconi. Con la modifica dell'articolo 41 della Costituzione, vi leggo il testo che stiamo perfezionando con i nostri esperti, e dice il testo: l'iniziativa e l'attività economica privata è libera ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. È un principio cardine che noi introduciamo come modifica della Costituzione, che sapete che in Parlamento ci vorranno due letture, dell'una e dell'altra Camera, con una distanza di 3 mesi tra una lettura e l'altra, ma è fondamentale perché da quando questo principio sarà approvato, per dare vita a un'attività economica, oggi occorrono, abbiamo contato in certi casi anche 18 autorizzazioni preventive, saranno sostituite da un solo controllo amministrativo a cose fatte. Oggi ci situiamo in Europa al secondo posto quando a solidità del nostro sistema nazionale. L'Italia è un paese che come Stato ha un debito pubblico elevato, ma come cittadini a dei cittadini che, uso tra virgolette il termine, che sono ricchi. Le lenzuolate di Bersani non hanno prodotto effetto alcuno ed erano provvedimenti assolutamente lontani da questo. Andavano addirittura non nella direzione della libertà, ma nella direzione di un maggiore centralismo e di un maggiore intervento dello Stato. Le entrate Bersani, ricorderete le liberalizzazioni sulle tariffe dei telefonini, sul massimo scoperto, sulla portabilità del conto corrente, sugli ordini professionali, sulle farmacie, sui farmaci da banco, sui punti, insomma, anche i tassisti che molto si arrabbiano. Ha risposto Bersani, comunque sentiamo. 1.800.000.000 di euro, mi sono spiegato, 1.800.000.000 di euro. C'avevo fuori dalla porta le compagnie telefoniche, mi massacravano, sono ancora in piedi le compagnie telefoniche, poi si saranno cose, eccetera. Non è che sono noccioline, eh. Un mutuo trasferibile per bene, senza tanto da in mezzo, è un beneficio, così come diciamo qui, anche sui conti correnti bisogna fare un'operazione così. E bisogna, aspettiamo che faccia Berlusconi queste cose, è un monopolista in natura, lui. Ma come si può concepire una cosa di questo genere? Su questo noi vogliamo riaprire il fronte. È 1.800.000.000 la stima di Bersani sugli effetti della soppressione della commissione di ricarica per i cellulari. Comunque, Giorgio Santilli, prima un commento su questo Consiglio dei Ministri. A mio avviso, già quando oggi avete scritto sul Sole 24 Ore, primo stop alla concorrenza, poi si è capito che Tremonti, prima di partire per questo viaggio alla Sydney Sonnino nel profondo sud, aveva detto tutto fate tranne che qualcosa che costi, che forse arrivava poco. Comunque, il tuo giudizio? Ma io lo articolerei in tre giudizi. Il primo è positivo che si parli di crescita, a patto e condizione ovviamente che non siamo all'ennesima melina, perché di meline ne abbiamo viste molte. La seconda, sulle misure, l'impressione ancora una volta è che ci sia un collage, se vogliamo chiamarlo così, di misure minimaliste rispetto allo sviluppo e alle vere partite in gioco. Dico collage, forse già una definizione eccessiva, nel senso che qui l'impressione vera è di una miriade piuttosto disordinata di norme. Terza valutazione, e qui mi ricollego anche un po' al lavoro che abbiamo fatto oggi sul 24 ore, io e altri colleghi, mi pare che le imprese in questo momento pensino ad altro, cioè le misure che hanno in mente le imprese sono di tutt'altra efficacia, di tutt'altra forza. Magari in certi casi coincidono i titoli di queste misure. Quando però poi andiamo a vedere che cosa c'è dentro, mi pare che la sostanza sia notevolmente diversa. Allora, il ministro Romani sugli incentivi, su come si articoleranno gli incentivi alle imprese. Vi do i punti cardine di questo provvedimento, sono semplificazione normativa con la drastica eliminazione delle tantissime leggi nazionali, circa 100, e col tentativo di fare ordine anche sulle 1.400 leggi a livello regionale, una flessibilità degli strumenti di intervento, ovviamente in stretto raccordo sempre con le regioni, una semplificazione delle procedure che poi vogliono dire sostanzialmente alla fine una forte riduzione dei tempi necessari per l'erogazione degli incentivi stessi. Sostanzialmente sono tre le categorie degli incentivi che vengono prodotti: una categoria di incentivo che corrisponde a quelli automatici tipo voucher, una categoria di incentivi che vengono erogati in base ai progetti su bandi di gara e una categoria di incentivi di procedure negoziali per investimenti al di sopra dei 20 milioni. Allora, Giorgio Santilli, i 10 punti che tu e altri colleghi, Eugenio Bruno, Davide Colombo, Carmine Fottina, Marco Mobili, Nicoletta Picchio, tu stesso, Marilena Seste e Gianni Trovati, avete individuato. Hai un paio di minuti per ricordarci 10 punti almeno. Sì, 10 punti. Innanzitutto abbiamo messo dentro la riforma fiscale. Sappiamo che c'è un percorso di riforma che è stato avviato dallo stesso ministro Tremonti. Credo che aspettare la fine della legislatura non sia opportuno né possibile, quindi fare subito qualcosa per la riforma fiscale, per modificare, per spostare tasse e imposte, come dice lo stesso ministro, dalle persone alle cose. Magari anche sulla rente finanziaria, portare a livello europeo, il 20% lo pagano tutti gli altri. Comunque, questa, non voglio rubare spazio, il piano delle piccole opere. Sì, il piano delle piccole opere. Il piano delle piccole opere, sappiamo, e questa è una patologia ormai direi più o meno a tutti, che il CIPE approva, stanzia una serie di risorse e poi passa un anno, forse due, prima che queste risorse vengano effettivamente messe a disposizione. Il piano delle piccole opere è un caso di questo genere, perché la prima approvazione è stata il 26 giugno 2009, siamo nel 2011 e ancora fermo lì. Infrastrutture private. Infrastrutture private, si parla, il governo ne parla molto, oggi peraltro Matteoli ha replicato polemicamente a un nostro altro lavoro fatto lunedì sul giornale, in cui commentavamo e valutavamo con una radiografia direi piuttosto dettagliata i ritardi del piano delle infrastrutture. Vabbè, insomma, al di là delle polemiche mi pare che le iniziative languano. Sui privati, se guardiamo i programmi del governo si parla di un 40% rispetto al programma delle opere finanziato da privati. Molte cose sono state fatte, perché se pensiamo alla Brebemi, alla Pietemontana Lombarda, lì un avvio è stato sicuramente fatto. Detto questo però servono ancora molte norme per snellire e per garantire anche il finanziamento di queste opere, per esempio da parte del sistema bancario. Allora, io diciamo sintetizzo sui ritardi della giustizia civile, perché di questo parliamo spesso, le procedure di conciliazione, l'innovazione e ricerca, voi suggerite giustamente un credito d'imposta automatico, per sbloccare il FAS, i fondi per lo sviluppo per il piano sud, ma sono fondi bloccati anche lì dal Ministero del Tesoro, la burocrazia e le semplificazioni, mi concentrerei sul patto di stabilità interno, liberalizzazione e piano a casa. Allora, il patto di stabilità interno significa in sostanza allentare i vincoli per quei comuni virtuosi, che quindi rispondono a una serie di requisiti che lo stesso Ministero dell'Economia ha già fissato, li ha fissati, ha dato questo segnale, dopodiché quello che viene dato in termini di possibilità di spesa a questi comuni è pochissima cosa. Lì ricordiamoci che c'è montare, qualcuno dice 5-6 miliardi, qualcuno dice di più, di crediti da parte delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e dei comuni. Sbloccare quelle sarebbe già un bel ossigeno all'economia. Le liberalizzazioni, se ne è parlato molto. E quello già abbiamo detto. E il patto di stabilità interno? E il piano casa? Il piano casa. Il piano casa, devo dire che tra le misure che oggi si sono cominciate a esaminare, non approvate, soltanto cominciate a esaminare, c'è una normativa piuttosto articolata anche per il piano casa, che diventa una sorta di città, quindi non più solo la villetta, ma possibilità di riqualificare zone di città. Una buona cosa, peccato che anche qui, attenzione a non fare gli errori già fatti in passato, perché se non c'è accordo con le regioni non si fa nulla, impantaniamo nello stesso sistema che abbiamo già visto. Come denuncia l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori. Grazie anche per la rapidità. Giorgio Santilli, da Sebastiano Barisoni, veramente tutto. Dell'IDL Vignali per la libertà fiscale delle imprese parleremo domani. Io vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.